e dall'altro c'è anche da dire che il miliardo ragionevolmente è dato da due grandi componenti, quella dei danni diretti e dall'altro dagli investimenti, cioè da tutte quelle infrastrutture idrauliche che noi comunque dovremmo realizzare per danneggiamenti da un lato e per nuove opere dall'altro, quindi il miliardo è dato dalla spesa corrente e quindi i danni da rifondere ai cittadini e dall'altro le nuove opere. Forse sfiora la retorica l'elogio della capacità dei veneti di rimboccarsi le maniche, di saper ripartire, eppure già ieri a Cresole, frazione di Caldogno, dove all'indomani dell'esondazione l'acqua arrivava al petto di un uomo normale, il terreno era bagnato dalla sola pioggia che questa volta leggera continuava a scendere e la stessa Vicenza appariva come una città tornata alla normalità. Forse è proprio questa capacità, questa passione per il sacrificio e questa propensione spiccata all'autosufficienza a far sì che non tutti, media compresi, si accorgano immediatamente della gravità dell'accaduto. Tanto che tocca agli industriali vicentini e, grazie ai nostri microfoni, lanciare una provocazione molto forte che serve anche a far accendere i riflettori sull'alluvione. Quattrini subito o sciopero fiscale. Luciano Vescovi, vicepresidente. Vogliamo solo dire, il messaggio chiaro era questo, sono 40 anni che con volontà, con determinazione contribuiamo a sostenere l'Italia con il nostro manifatturiero, siamo pronti a farlo ancora, però adesso per cortesia un po' di attenzione e un po' di attenzione verso una terra che non chiede nulla di particolare, chiede che gli venga restituito una parte di quello che ha dato negli ultimi 40 anni. I riflettori dunque si accendono e una folta delegazione governativa istituzionale si muove verso quelle terre. Il presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, accompagnato da Umberto Bossi, da Zaia, dal presidente del Piemonte Cota, tocca a Monteforte d'Alpone, nel Veronese, e promette aiuto. Sull'ipotesi dello stesso Zaia di tenere gli acconti IRPEF in regione, parla così. Non ci sarà bisogno, perché ci sarà la dazione dello Stato che sarà celere e sostanziosa. Poi in prefettura Vicenza, infine in prefettura Padova, dove lo attende una dura contestazione. Qualche centinaio di ragazzi, gli slogan sono più politici che altro, ma spuntano anche cartelli con scritto "a noi il fango, a voi le escort" e qualche grido isolato: soldi, soldi. Il punto però è l'esito di questo vertice, che soddisfa pochi dei partecipanti. C'è il giudizio tranchant del sindaco di Padova, il PD Flavio Zanonato. Umberto Bossi fumava il toscano in una sala chiusa. Siamo dietro il figlio che... Il presidente della regione, un'altra cosa curiosa, il presidente della regione Piemonte non dovrebbe starsene in Piemonte a curare gli affari del Piemonte, Cota, anche lui nel codazzo. È una piccola manifestazioncina a cui abbiamo dovuto assistere. Lei dice non è emerso niente. Niente, cioè cose del tipo abbiamo chiesto alle banche eccetera eccetera. Non c'è una misura vera che sia stata annunciata. Ma anche quello di Bovolenta, di centrodestra, non è contento. Ha detto delle cose che dice sempre, voglio dire, in generale. L'unica cosa certa è quello che io faccio come consiglio comunale, che metto a disposizione i cittadini di Bovolenta 80.000 euro. Questa è l'unica cosa certa. Ancor meno i commercianti, come il presidente dell'associazione padovana, Zilio Fernando. Noi non hanno potuto dire una parola e abbiamo questo, la gente che piange, che è disperata, che ha le fabbriche rovinate, e non abbiamo potuto dire una parola. Aziende distrutte, con la gente che piange, che deve pagare i mutui, deve pagare le tasse, non ha materiale, ha contratti scaduti, non sa come fare perché non consegna la merce. Non abbiamo bisogno di risposte concrete. Mi sembra che il mondo economico doveva dire una parola. Mentre è più morbida e più attendista l'opinione degli industriali, il presidente di quelli padovani, Francesco Peghin. Non si è capito esattamente nel concreto gli strumenti, perché è stata una riunione molto breve, però ha detto che dopo una riunione con il ministro Tremonti farà sapere esattamente il tipo di azioni, quindi questo credo sia un impegno che prendiamo come buono, intendiamo fiduciosi. Si attende dunque, mentre il triangolo tra Verona, Vicenza e Padova cerca di tornare a camminare sulle proprie gambe, come del resto ha sempre fatto. Sono le 13:43 minuti e 45 secondi e pochi secondi fa è arrivato l'annuncio del premier Silvio Berlusconi nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Chigi, che per i comuni del Veneto e per la protezione civile arriveranno 300 milioni con un atto, quindi con un decreto di Palazzo Chigi. Poco fa Berlusconi ha sottolineato la risposta immediata del governo sulla base di un inventario provvisorio, poi ha detto ci sarà un inventario organico e nel caso saranno destinate altre somme. Dunque lo speciale dedicato al Veneto, condotto da Daniele Biacchessi, il reportage di Simone Spezia, termina qui. Vi ricordo Italia in Controluce, il gruppo di Facebook in Controluce, quello su Twitter, Controluce @radio24.it, la mail per poterci scrivere. Torniamo domani alle 6:30 su Radio 24.